Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti e cari radioascoltatori. Bene, oggi parleremo di un argomento che sta molto a cuore agli italiani e soprattutto chi ama i prodotti di grande qualità, l'olio d'oliva extravergine in particolare, anche perché questo prodotto c'è sempre questo alone di misteri, di truffe, di adulterazioni, quindi dovrebbe essere chiarito una volta per sempre anche questo problema del divieto delle oliere e l'introduzione del tappo anti-rabbocco nei ristoranti, che ogni volta che noi presentiamo all'Unione Europea ci viene regolarmente respinto. È un po' così, sembra un po' il gioco delle parti. Perché viene respinto? E perché l'olio così a quest'area sempre grigia e non c'è un massimo della protezione, anche se da parte dell'Italia ogni volta ci sono state così delle misure concrete proposte. Allora partiamo da questo argomento, poi parleremo anche di un altro argomento molto importante, che è quello della provenienza e imbottigliamento, questo distinguo da fare sull'olio extravergine italiano, dove tre regioni, poi le vedremo, sono quelle che sono dominanti sulla domanda di olio, mentre dal punto di vista della provenienza, beh, sono ben altre. Quindi c'è, diciamo, questa differenza molto importante. Andremo a vedere se è problematica oppure se è tutto tranquillo, e ne parleremo anche con il nucleo antifrodi. Bene, io vorrei iniziare arrivando a Bruxelles, perché a Bruxelles il nostro interlocutore che ogni volta dice no, e voglio parlarne con Paolo De Castro, che è presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, che io ricordo che quando era ministro dell'Agricoltura anche lui fece una bella battaglia sulla etichetta dell'olio d'oliva extravergine in quel di Bruxelles. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Perché c'è questa reticenza dagli organi comunitari, specialmente da questo commissario Cholos? Hai ragione a sottolinearlo, è un problema di cultura. Per noi mediterranei, per noi italiani, la cultura alimentare è un fatto molto serio. È evidente che abbiamo molta attenzione e soprattutto molta più attenzione noi del sud al nord, riguardano la trasparenza, la tracciabilità, l'origine, come dicevi adesso, in genere dei prodotti alimentari. Questo non è condiviso in qualche parte dell'Europa. Tanto è vero che il provvedimento che tu citavi, che è un provvedimento europeo e non italiano, è un regolamento che l'Unione Europea aveva deciso, il commissario Dacian Cholos aveva deciso di applicare comunque, anche se i paesi erano solo 15 su 27 e non costituivano una maggioranza qualificata. Ma ecco, sì, devo dire che innanzitutto vogliamo spiegare perché questa introduzione. Ecco, è caduta la linea del nostro Paolo De Castro, ma la recupereremo. Vogliamo innanzitutto, ricordo il numero verde 800 24 00 24. No, volevo ricordare perché il divieto delle oliere e del tappo anti-rabbocco nei ristoranti, perché di solito nei ristoranti queste oliere portano un olio di cui non sappiamo la provenienza, il produttore e nient'altro, rimangono aperte, quindi si ossida per lungo tempo, viene rabboccato e quindi magari anche in bottiglie in cui c'è il nome di un grande produttore, poi in realtà magari l'olio è di seconda qualità o di terza qualità, e poi anche e soprattutto nelle pizzerie, dove vediamo questi oli messi con il peperoncino per mesi che rimangono lì a stanziare. Quindi devo dire che sarebbe, per la cura e per la salvaguardia del consumatore, un bel passo in avanti. Però abbiamo ritrovato il nostro Paolo De Castro, al quale voglio appunto chiedere, ma l'olio sembra veramente che sia, come posso dire, il pomo della discordia tra i vari paesi. C'è un fronte a favore della difesa e della produzione di qualità e un fronte contro. Perché? Perché rappresenta un grosso valore internazionale di scambio. No, beh, diciamo che, come stavamo dicendo prima che cadesse la linea, è sicuramente diffuso in senso orizzontale questo tema. L'olio fa più notizia e quindi sul quale se ne discute di più. Tra l'altro in questo caso c'è stata una vera e propria marcia dietro del commissario, dimostrando anche una debolezza sua e dell'intera commissione nei confronti delle prese di posizioni del presidente Cameron e del premier olandese. Ma è generale questo approccio. È stato, quando abbiamo dibattuto del regolamento sulle informazioni ai consumatori, i nordici volevano mettere i semafori, ti ricordo, cioè tutto un tema che sicuramente mostra una cultura alimentare molto diversa dalla nostra. E anche in questo caso erano 15 voti a favore su 27. Ciò nonostante, devo dire che l'Europa stava andando nella direzione giusta, e in questo senso grazie anche al Parlamento europeo, che oggi ha più forza e più autorevolezza nel farsi sentire in queste diatribe di carattere culturale nord e sud dell'Europa. Senti Paolo, diciamoci la verità, sì, 12 contro 15, ma in realtà dietro l'olio c'è una grande lobby. Lobby livello internazionale, di cui l'Italia conta ben poco, perché ormai anche buona parte dell'olio italiano non è più in mano agli italiani. Sì, guarda, il discorso delle lobby alle volte noi ci piace nasconderci dietro questo termine, in realtà è un problema culturale, le lobby ci stanno dappertutto, il business alimentare è un business enorme che riguarda non soltanto il nostro paese. Ricordiamoci che la Germania fa più del doppio delle esportazioni italiane e non ha certo il made in Italy, così come la Francia fa molto di più dell'Italia, quindi il tema interessa moltissimo tutta Europa e tra l'altro è uno dei pochi settori che cresce, che crea occupazione in questo momento di difficoltà economica. Quindi c'è un problema specifico dell'olio, c'è un problema specifico dell'alimentare che riguarda la cultura e gli interessi. Noi dobbiamo essere più forti, allearci di più con i paesi che condividono con noi questa cultura, francesi, spagnoli, greci, portoghesi. Spesso la cultura mediterranea in qualche modo ha dovuto sottostare un po' a questo imperativo nordico che è più legato alle norme HACCP che alla tradizione. È vero, è vero. Ma tu hai parlato addirittura di Germania, quindi la Germania di olivi ne ha ben pochi. Le olive ne ha ben pochi, ma ha più del doppio delle esportazioni italiane, questo che ci spaventa. Per esempio, un tema che mi ha molto impressionato, e uno può ritenere che la Germania nei prodotti ad alto valore aggiunto non sia importante, pure esporta il triplo dei formaggi che esportiamo noi, non il latte, dei formaggi, esporta addirittura il doppio del caffè che esportiamo noi, esporta tantissimi prodotti di carne lavorata. Quindi il tema dell'alta qualità e del valore aggiunto è un tema che sta rendendo molto in altri paesi europei. E noi che dobbiamo fare uno sforzo in più, in questo senso l'alleato Parlamento ci può aiutare, ma uno sforzo in più massiccio che deve riguardare anche le più alte cariche dello Stato. Guarda, Davide, come ha reagito subito François Hollande alla semplice minaccia dei ricchi di ritorsione cinese sul vino europeo. Cioè capire che questo è un una grande opportunità certo. Economica e sociale. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di questi misteri, i misteri che riguardano l'olio che abbiamo, come sentito, a livello mondiale è un business veramente importante di cui noi italiani, come al solito, diciamo raccogliamo le briciole. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, ma voglio anche riprendere questo tema. Vorrei sentire che intervenisse qualche ristoratore, trattore o pizzaiolo, cosa ne pensano di questo divieto delle oliere e l'introduzione del tappo anti rabbocco. Sono d'accordo, non sono d'accordo, crea dei problemi, e vorrei sapere anche qualche consumatore cosa ne pensa, appunto, se finalmente venisse, se si sapesse cosa si serve appunto sulle tavole quando si condiscono le insalate oppure quando si aggiunge l'olio a qualche piattanza. Credo che sia abbastanza importante per la salute del consumatore. Bene, io vorrei riprendere il discorso delle oliere antirabbocco, ma poi passeremo anche a un altro discorso, come ho detto, sulla differenza tra provenienza e imbottigliamento dell'olio proprio in Italia. E allora io voglio sentire da Donato Rossi, che è presidente della Federazione Nazionale Olivicola di Confagricoltura, tra l'altro produttore in Puglia. Volevo sapere appunto cosa ne pensa di questa resistenza da appunto dell'Unione Europea di difendere la qualità dell'olio e di difendere anche diciamo il consumatore. Buongiorno Rossi. Buongiorno a tutti. Ma l'argomento è abbastanza per noi spinoso, per noi addetti al settore, perché purtroppo ci ha visto un po' delusi in quest'ultimo momento con la retromarcia che Ciolos ha manifestato nei nostri riguardi, perché e nei riguardi di tutto un settore che aveva legato in maniera forte questo provvedimento, avendo poi a parte tutto su 27 stati membri a favore, ce n'erano stati membri, quindi c'erano a favore, quindi c'era un'ampia maggioranza che approvava tutta la normativa. E tutto questo sicuramente ci ha buttato nello sconforto, perché è ovvio e naturale, butta noi produttori nello sconforto, perché perdiamo un attimo quelle che sono le garanzie legate a un certo tipo di commercializzazione, ma essenzialmente ritengo vada a delegittimare i diritti del consumatore, in questo caso del consumatore finale. Bene. E tutto questo ritengo che non sia corretto, ecco, alla luce anche delle nuove regole, delle nuove normative che sono per tutte rigorosissime e importanti. E questa lo era per noi, per il nostro settore, ma le assicuro per il consumatore finale. Bene, rimanga con noi perché introdurremo un altro argomento abbastanza importante e lo introdurremo con una giornalista del Fatto Alimentare, fattoalimentare.it, Paola Emilia Cicerone, perché ha scritto un articolo recentemente in cui metteva in rilievo, e questo credo sia abbastanza importante, la differenza tra la provenienza dell'olio prodotto in Italia e l'imbottigliamento. E la cosa molto interessante era che è noto che l'italiano cosa chiede quando si parla di olio? Toscana, Liguria, Umbria, generalmente, non sempre, però spesso è così. Se andiamo a vedere i dati, appunto, Paola Emilia Cicerone ha fatto questa indagine attraverso dei dati della AGEA, cioè esiste una differenza sostanziale che queste tre regioni sono quelle che imbottigliano larga parte dell'olio, mentre diciamo la produzione avviene in quasi tutte diciamo le principali regioni del sud. Quindi c'è questa discrepanza. E, Emilia, ci puoi dare così qualche dato in proposito? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto, sì, noi come Fatto Alimentare abbiamo ovviamente cercato di guardare questa cosa dal punto di vista dei consumatori e della chiarezza della comunicazione per i consumatori, era quello che ci interessava. Ora, appunto, come già diceva lei, la Toscana produce poco olio, circa il 5% della produzione nazionale, ne imbottiglia il 36%. La stragrande maggioranza dell'olio di produzione italiana, perché in Italia si commercializza anche una quantità di olio di produzione europea di altri paesi europei o extracomunitaria, è prodotto dalle regioni del sud. La Toscana non è una regione di produzione, è una regione di imbottigliamento. Se volete un altro numero, gli ultimi dati disponibili, dunque, in Toscana sono state prodotte, dov'è la Toscana, circa 9.000 tonnellate di olio extravergine, questa è la vendita di olio, l'olio fatto in Toscana, in litri sono state imbottigliate 143.578 e spiccio bottiglie. Diciamo che sono anche altre due regioni che hanno queste discrepanze. Sono abbastanza anche altre regioni, sono la Liguria, l'Umbria e la Lombardia, anche un po' le regioni di nome, l'olio che si è abituati, ecco, a chiedere. In Lombardia, come in Germania, quanto diceva prima l'onorevole De Castro, c'è molta imbottigliamento e poca produzione, perché ci sono poche aree, certo, che fanno olio. Questo forse è importante dirlo, non è una condanna per la qualità di questo prodotto, né una violazione, certo, della legge, certo, perché la legge, questo è importante dirlo, impone, se si tratta semplicemente di olio extravergine di oliva, non di un prodotto DOP o IGP, quindi a denominazione protetta o indicazione geografica, impone di indicare la provenienza nazionale, quindi ci deve essere scritto se è olio italiano, se è olio comunitario o se è olio extracomunitario. Il problema è che le persone spesso guardano l'etichetta dove spesso è indicata la provenienza geografica dell'imbottigliatore e se vedono che l'olio viene da Regello o da Firenze, presumono che sia toscano. Certo. Beh, rimani con noi, sentiamo Raffaele dalla provincia di Como. Buongiorno Raffaele. Buongiorno, intanto mi scuso per la voce che sono un po' raffreddato. Prego. Volevo dire che intanto mi sembra che la competenza e la cultura alimentare italiana dal punto di vista del consumatore stia andando un po' a farsi friggere, nel senso che secondo me sta molto scemando. E poi sul discorso, siccome io ho un ristorante, sì, io normalmente prendo sempre lo stesso olio che metto nelle oliere, però non capisco perché eventualmente, visto che io ritengo di essere una persona corretta, se devo mettere l'olio extravergine nelle oliere invece che metterlo nelle bottiglie già preconfezionate o col tappo non rimboccabile, lo pago sicuramente 2 euro e mezzo in più al litro. Io ci metto lo stesso olio extravergine, cerco di essere il più corretto possibile e ci metto un olio di qualità. Se l'olio non è di qualità, il cliente, se ha la cultura alimentare, se ne dovrebbe accorgere, altrimenti stiamo beh, parlando insomma, questo però mi sembra che sia scontato. Cosa significa di avere una cultura? Cioè, credo innanzitutto ci deve essere una protezione, non è che tutti possono aver fatto il corso di degustazione dell'olio, quindi mi sembra un po' un'esagerazione. Dice anche, c'ho anche un sms che mi dice: sono contrario alla normazione per legge delle oliere, chi vuole la qualità sa dove trovarla, la tutela ad ogni costo produce consumatori passivi. Io non sono assolutamente d'accordo, perché c'è una parte di consumatori che non conosce, quindi sono questi che bisogna proteggere. Comunque numero verde 800 24 00 24. Io voglio passare a tornare a Donato Rossi. Donato Rossi, ha sentito cosa, diciamo, i dati che ci ha offerto appunto Paola Emilia Cicerone? Ecco, lei come produttore pugliese non si sente in un certo caso, come posso dire, sminuito di fronte all'italiano che chiede sempre solitamente olio di 3 regioni dove invece la produzione è maggiore nella sua terra? Guarda, sicuramente le confermo quello che lei mi dice, ma tenga conto che mediamente, sono in parte d'accordo con Raffaele, il consumatore oggi inizia a essere perlomeno più attento e informato, ma tutto questo genera sì una positività per noi, ma che tutto sommato è insufficiente, e torno a ripetermi, è insufficiente per noi produttori, ma è insufficiente anche per il consumatore. Il tappo antirabbocco era un sigillo di garanzia che, al di là di tutto, al di là del fatto che capisco il maggior costo, capisco una serie di adempimenti che scaturiscono molto più pesanti e più importanti, però era in questo momento una forma di grande legittimazione. E chi le parla, le dico, produce olio di varietà di cultivar Coratina, che è una cultivar essenzialmente da taglio, perché dà un olio con carattere molto fruttato, molto, molto profumato, e quindi naturalmente non sempre, dipende anche dalle annate agronomiche, ma non sempre al palato del comune consumatore è apprezzato e riconosciuto per quello che vale tutto quanto. E tutto questo però, per quelli che sono i prodotti riferiti alla nicchia e quindi che vanno poi a creare i blend e a creare quelle che sono le possibilità di commercializzazione, e io ritengo, insisto, che le forme di garanzia come il tappo antirabbocco, un'etichetta molto più specifica ed esplicativa nei riguardi del consumatore, hanno la loro importanza. Insomma. Bene, grazie a Donato Rossi. Giancarlo Greco dalla provincia di Cosenza. Buongiorno, sono Giancarlo Greco, telefono da Cariati, sono il presidente del consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOC Bruzio. Saluto il dottor Davide Paolini e volevo intervenire anche a seguito dell'intervento dell'onorevole De Castro, con il quale ci siamo sentiti nei giorni scorsi a riguardo di questo problemaccio che si è verificato a livello europeo. Io volevo portare anche l'attenzione in Italia, dove la normativa è vigente, però è poco sanzionato colui il quale non la rispetta. Basta andare in qualunque ristorante, non in tutti ovviamente, e ci si accorge che le oliere sono ancora presenti. In Italia non dovrebbe essere così, quindi quello che io voglio dire è sollecitare gli organismi preposti per il controllo del rispetto della normativa. Bene, grazie a Giancarlo Greco. Porremo questo problema al capitano Vincenzo Ferrara, che interverrà fra poco appunto su questo argomento. E Gianfranco dalla provincia di Frosinone, buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto. Io chiamo perché in effetti la mia famiglia, come tante famiglie del centro Italia, del mezzogiorno d'Italia, sono proprietari di piccoli oliveti, piccoli medi oliveti. Io voglio dire che questi piccoli medi oliveti oggigiorno sono in gran parte in abbandono. Questi piccoli oliveti producevano fino a qualche decennio fa un olio che, mi diceva mia madre, costava negli anni 70 10.000 lire al litro. Sì. Oggigiorno il litro d'olio più o meno possiamo dire che costa attorno ai 5. Vuol dire che quella produzione che comunque riforniva le città vicino per, vicine per quanto riguarda il mio paesino in provincia di Frosinone. L'olio arrivava anche magari a Roma e soprattutto a Napoli, se andiamo indietro nel tempo. Quel tipo di produzione oggi è completamente scomparso. Bene. Quello era l'ultimo tipo di produzione che veramente garantiva il biologico. Le produzioni attualmente in Italia sono in gran parte estensive e qualitativamente offrono un olio non diverso, credo, da quanto offrono le produzioni estensive della Francia o della Spagna. Grazie. Quindi se vogliamo difendere l'autenticità, dovremmo difendere voglio dire l'artigianato anche in agricoltura. Grazie. Grazie Gianfranco dalla provincia di Frosinone. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di olio, a parlare appunto di olio di oliere, di antirabbocco, di produzione di olio da una parte, imbottigliamento da un'altra. Bene, l'olio come al solito è sempre sugli scudi e anche appunto per quest'area molto grigia. Sto ricevendo una serie di sms durissimi da parte della ristorazione che rifiuta questo, diciamo, l'imposizione del antirabbocco, perché sostengono che è umiliante. Altri sostengono che siccome c'è crisi si vuole creare ancora più la crisi. Non credo che con, diciamo, l'olio antirabbocco si aumenti la crisi. Ma sentiamo Giuseppe dalla provincia di Imperia, un radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Sì, prima di tutto io sono un contadino olivicoltore. Bene. Volevo portare l'attenzione sulla normativa europea in questo senso. Se siamo in Europa dovrebbe essere in tutte le nazioni dell'Europa lo stesso regolamento. Invece così non è assolutamente. Esempio. Era consuetudine in Liguria, come altre regioni d'Italia, vendere l'olio direttamente che usciva dalle centrifughe del frantoio al cliente finale nei bidoni d'acciaio, se lo portavano a casa. Adesso non si può più fare, è diventata addirittura una frode alimentare, questa cosa è assurda. Però poi vai in altre nazioni europee e si può vendere direttamente l'olio sfuso in gastronomia, o addirittura in Germania c'è una catena di supermercati che lo fa, al cliente finale che si porta addirittura la bottiglietta d'olio da casa, purché sulla confezione, cioè sul fustino d'acciaio da 50-100 kg presente in quel negozio, ci sia l'origine, la provenienza e chi ha prodotto. Bene, tutto quello. Bene, Giuseppe. Abbiamo capito appunto questa disparità. Guardi, abbiamo con noi Stefano Masini, che è responsabile dei consumi Coldiretti, quindi sicuramente quando si parla di coltivatori credo che sia una voce importante, e rimando a lui questa sua osservazione, però poi ne faccio un'altra io, chiedendo, visto che la Coldiretti, diciamo, è il portabandiera del chilometro zero, cosa ne pensa di questa differenza davvero notevole tra provenienza dell'olio e imbottigliamento in Italia. Buongiorno Masini. Buongiorno. Prego. Sì, rispondere all'ascoltatore, sicuramente la normativa europea dovrebbe essere garantita attraverso pari controlli in tutti gli stati, e sicuramente questo è un elemento che rafforza la nostra riflessione sul fatto che in Italia la sicurezza alimentare e la qualità sono presidiate da una rete di controllori efficiente e utile rispetto agli interessi dei consumatori. Però l'obiezione è che l'olio, come il vino, deve seguire una strategia di marketing molto diversa. Noi dobbiamo pensare all'olio che non possa essere venduto sfuso, l'obiettivo è quello di dare valore a questo prodotto attraverso un marketing adeguato, quindi un imbottigliamento anche frazionato, piccole dosi, in grado di portare sulla tavola anche la narrazione dell'olio, non come prodotto generico indifferenziato, ma attraverso un'adeguata etichettatura, informazioni, racconti dei luoghi, dei territori, dei mestieri che sono legati a questa straordinaria tradizione. Ecco. Masini, sul discorso invece questo appunto della discrepanza tra provenienza dell'olio da alcune regioni ristrette al sud e l'imbottigliamento avviene, che invece che avviene nelle tre regioni, diciamo, che hanno grande immagine sull'olio diciamo all'occhio del consumatore, lei cosa ne pensa? È un'anomalia commerciale. Insomma, possiamo citare l'esempio della Toscana. In Toscana si producono 14.000 tonnellate di olio, ma poi diventa la prima regione per imbottigliamento con oltre 138.000 tonnellate, e questo vuol dire che c'è qualche soggetto commerciale che sfrutta attraverso la pubblicità l'immagine territoriale. Voglio dire, spesso sono soggetti diversi dagli agricoltori, immettono sui mercati interni e internazionali degli oli di cui la pubblicità sostanzialmente presenta una origine territoriale, magari attraverso nomi di città, magari attraverso una simbologia descrittiva dei territori o delle diciamo tradizioni della Toscana. Oggi dobbiamo anche essere in grado di leggere attraverso internet, spesso sono immagini di luoghi tipici della Toscana. Bene, grazie Masini e grazie anche a Paolo Emilia Cicerone. Ora vorrei sentire Orlando da Reggio Emilia, un radioascoltatore. Buongiorno Orlando. Buongiorno, salve, chiamo da Reggio Emilia. Molto interessante, molto ben trattato. Sono d'accordo con lei quando ha detto prima che un tappo antirabocco non può certo aumentare la crisi. La mia domanda però era di un'altra natura. Quando parliamo di made in Italy, soprattutto agroalimentare, eccetera, io sento sempre la stessa storia, cioè abbiamo i prodotti in modo in Libia, ma non riusciamo a esportarli come gli altri paesi. Siamo cattivi esportatori, siamo bravi gli altri, non abbiamo delle infrastrutture adatte. Io ho parlato proprio la settimana scorsa con una rivendita di prodotti di qualità, di alta qualità. E purtroppo Orlando si sente malissimo, vediamo eventualmente di recuperare la sua telefonata perché non sentiamo. Io ero con noi Giuseppe Politi, che è presidente della Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno Politi. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Senta, io voglio riprendere un discorso che ha fatto prima Paolo De Castro e ha detto in fondo, cioè i tedeschi sono diciamo commercianti di olio molto più importanti di noi, così pure i francesi e magari chissà, un giorno lo diventeranno anche i cinesi o i russi. Ecco, ma secondo lei cos'è che manca per valorizzare appunto l'olio italiano, la commercializzazione dell'olio italiano e di farsi sentire a livello mondiale? Secondo me manca un'idea, se vogliamo, anche progettuale, capacità di fare squadra, cioè questo sia dalla produzione ma anche dell'industria di trasformazione. Cioè non riusciamo a utilizzare, a difendere bene sui mercati internazionali, diciamo, l'unico vantaggio competitivo che abbiamo, cioè quello di essere una produzione italiana. Se ce la copiano, la faroccano e così via, vuol dire che c'è qualcosa in più rispetto agli altri. Purtroppo, come dire, ci presentiamo in maniera differente sui mercati, ci abbiamo le piccole gelosie, per esempio ancora l'industria di trasformazione in generale non ha capito che è la prima a dover difendere il Made in Italy, insomma, essere a evitare giochi e giochini, e quindi poi inevitabilmente succede quello che sta succedendo, cioè i poteri forti riescono a vincere sulla la qualità e ciò che riusciamo a fare come per ciò che riguarda la nostra produzione. Bene, ricordo il numero verde 800 24 0024. Sentiamo Vittorio dalla provincia di Firenze. Buongiorno Vittorio. Buongiorno, senta, volevo richiamare l'attenzione sull'aspetto normativo, no? Secondo me, per quanto riguarda l'olio, ci sono delle lacune, a parte diciamo le produzioni ad hoc e IGP, che quelle hanno una normativa specifica, certo, abbastanza ristretta, ma per il resto io dico si dovrebbe ricondurre la normativa dell'olio d'oliva sulla falsariga di quella che è per il vino, nel senso che se io compro un vino in Spagna, per esempio, devo scrivere sull'etichetta, e lo imbottiglio, devo scrivere sull'etichetta vino proveniente da paese comunitario. Cioè addirittura lo compro, non so, io in Tunisia devo scrivere vino proveniente dal paese comunitario. E oltre a questo aspetto che riguarda la tracciabilità, c'è quello che riguarda la qualità dell'olio, che viene basata sostanzialmente, ripeto, al di fuori degli oli DOP e IGP, su un parametro chimico, che è l'acidità oleica, e su un parametro organolettico, e questo mi sembra veramente fondamentale. Politi, lei cosa ne pensa a proposito dell'osservazione di Vittorio? Ma che non è sufficiente dire proveniente da un paese dell'Unione Europea, perché lo sappiamo per ciò che riguarda specificatamente l'olio, insomma, che le maggiori preoccupazioni le abbiamo soprattutto con la Spagna, insomma, cioè la qualità dell'olio italiano, almeno ad oggi, è sicuramente superiore a quella di tutti gli altri paesi. La migliore cosa sarebbe per l'olio, come per tutti i prodotti, e farli viaggiare, diciamo, con la loro carta d'identità e quindi la loro provenienza in maniera chiara, dire se è un olio italiano, se è un olio nato in Toscana o nato in Puglia, o nato in Spagna o nato in Tunisia. È una cosa così semplice, se vogliamo, anche perché stiamo parlando di diritti dei consumatori, oltre che della produzione, così semplice ma altamente difficile, perché ci stanno i poteri, diciamo, economici forti, che sostanzialmente non fanno fare un passo in avanti per ciò che riguarda questi diritti dei consumatori e dei produttori. Quindi un'operazione di trasparenza che sembra qualcosa di semplice, scrivere sull'etichetta in maniera chiara se quel prodotto viene da una regione, da un paese, basta, quelle che sono le sue caratteristiche. Cose semplici, però che sono maledettamente difficili. Mi scusi Politi, lei quindi dice che dovrebbe essere questa indicazione anche sugli oli che non sono DOP e IGP, è così? Sì, certamente. L'origine del prodotto deve essere sempre data, perché la DOP sostanzialmente viene certificata anche il processo di lavorazione, per intenderci, la varietà delle olive, se sono fatte a quella temperatura o quell'altra temperatura, quando le diverse, ma questo, diciamo, è la DOP. Ma l'origine è un diritto sacrosanto del consumatore, sapere quello che compra, cioè il consumatore non può essere imbrogliato e il produttore non può essere imbrogliato. Bene, grazie. Quindi il problema è questo. Grazie a lei. Grazie. Orlando doveva finire il suo discorso da Reggio Emilia, 30 secondi. Fondamentalmente mi chiedevo quali fossero, cioè come potremmo diventare, oltre ad essere grandi produttori, prodotti di qualità, anche bravi esportatori. Bene. Perché gli altri sono più bravi? Perché hanno forse un'imprenditoria migliore, probabilmente, perché il settore alimentare, la nostra imprenditoria non è che sia fortissima a livello europeo, tant'è vero che buona parte delle nostre aziende, anche nel settore olio, sono state comprate da stranieri, quindi questo forse lo dimostra. Grazie Orlando da Reggio Emilia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo arrivati, diciamo, alla parte finale. Bene, abbiamo con noi il capitano Vincenzo Ferrara, comandante nucleo antifrodi Carabinieri di Salerno. Buongiorno capitano. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, buongiorno. Senta capitano, io le faccio una domanda, diciamo, molto semplice. Le chiedo, siamo sufficientemente garantiti come consumatori di quello che assaggiamo, diciamo, che beviamo, mangiamo sull'olio, perché diciamo che frodi, adulterazioni sull'olio sono molto molto frequenti. Ecco, abbiamo un sistema di controllo adeguato a questo? Sì, intanto se mi consente, proprio per rispondere puntualmente alla domanda, voglio segnalare che le principali declinazioni delle attività del nostro reparto si esplicano attraverso tre macro aree. La prima è proprio quella del contrasto alle frodi agroalimentari, con particolare riferimento all'agropirateria, quindi alla contraffazione, all'evocazione di marchi anche di qualità, DOP, IGP, biologico, eccetera, e alla normativa sull'etichettatura e alla tracciabilità, anche con riferimento all'osservazione che faceva l'ascoltatore che ho sentito poc'anzi, il contrasto agli illeciti finanziamenti comunitari, il contrasto alle frodi in competizioni sportive. Devo dire che c'è stata grande attenzione da parte del legislatore nazionale, ma anche del Ministero per le politiche agricole. La legge 9, ad esempio, è molto attenta e offre uno strumentario alle forze di controllo che ritengo di grande impatto, ad esempio il riconoscimento di nuovi parametri e metodi di controllo qualitativi. Mi riferisco ad esempio agli alchilesteri. Si ritiene infatti che un indice elevato di alchilesteri sia sempre segno di una scarsa attenzione verso le corrette pratiche agronomiche e tecnologiche di produzione, che appunto mal si concilia con la qualità che dovrebbe avere un olio extravergine di oliva. Diceva prima l'ascoltatore, signor Vittorio, se non ricordo male, diceva: ma non ci sono metodi qualitativi. Sì, ci sono. Infatti mi piace ricordare una delle più importanti attività del Comando Carabinieri Politiche Agricole, che poi è stata posta in essere dal Nucleo Antifrodi di Parma. Proprio avvalendoci di questi alchilesteri, noi abbiamo scoperto una frode importantissima sull'olio deodorato. In realtà, la sintetizzo, visto il poco tempo che ho a disposizione, sì. I carabinieri di Parma del nucleo antifrodi hanno individuato una frode commerciale posta in essere su un flusso di commercializzazione sull'olio extravergine di oliva. Ecco. In particolare, individuando un'azienda olearia di Forlì che aveva importato olio proveniente proprio da quei paesi così attenzionati poc'anzi, Spagna e Grecia, che lo avevano miscelato per destinarlo ad aziende del settore della ristorazione. Proprio con quelle analisi di cui dicevo, perché gli alchi lesteri, in base a questa legge da me indicata, non possono superare i 30 milligrammi per chilogrammo. Noi quindi abbiamo potuto rilevare che questo olio era di scarsa qualità. Questo è un esempio pratico che la filiera è controllata e comunque c'è... Capitano, bene, rimanga con noi perché abbiamo tante domande, vediamo se riusciamo. Però io prima voglio passare la parola anche a Massimo Gargano, che è presidente UNAPRO, il Consorzio Olivicolo Italiano. Perché volevo chiederle questo, Gargano, cioè abbiamo sentito prima di questa grande discrepanza tra provenienza e imbottigliamento negli oli che non sono DOP e IGP. Ecco, quindi noi compriamo un olio, diciamo, imbottigliato, non lo so, in Umbria piuttosto che in Liguria, piuttosto che in altre parti d'Italia che sono, diciamo, quelle che maggiormente imbottigliano, però non sappiamo da dove arriva. Di questo noi di fatto ci troviamo di fronte a una... Purtroppo Gargano, non riusciamo a sentirlo. Proviamo se riusciamo a ricollegarci. Bene, sentiamo Carlo da Napoli. Buongiorno Carlo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, molto interessante. Una domanda, l'attenzione molto alta che sento porre sul tappo antirabocco, che evidentemente è riferita alla bottiglia che io trovo a tavola, poi si riflette anche sul controllo, diciamo, di quello che succede dietro le quinte, cioè poi anche nelle cucine. Io da cliente del ristorante posso aspettarmi una legislazione altrettanto scrupolosa, perché evidentemente sarebbe un altro senso che sui 10 grammi che mette nell'insalata ho un controllo così massimo e poi tutto il resto del ciclo produttivo non è altrettanto controllato. Certo. Bene, capitano Ferrara, prego. Ci sono controlli anche nelle cucine? Ma certamente, diciamo, sono due piani differenti. La legge 9 del 2013 all'articolo 7 stabilisce come deve essere proposto la confezione dell'olio nell'oliera. L'ascoltatore invece ci prospettava un'altra questione. Certo, cioè, quello che viene usato in cucina. Ecco, noi naturalmente controlliamo tutta la tracciabilità dell'olio all'interno dell'azienda, quindi anche sotto questo aspetto voglio possiamo stare tranquilli. E non solo, vi è una sinergia anche con i colleghi del NAS che guardano il profilo igienico-sanitario all'interno della stessa struttura. Bene, torniamo a Gargano che abbiamo ripescato. Buongiorno Gargano, le rifaccio la domanda di prima, però aveva già capito, quindi. La domanda non l'avevo ben capita, non eravamo riusciti a salutare gli ascoltatori e tutti voi in trasmissione, per cui lo faccio adesso, vi do un buongiorno e un grazie per l'interessamento su questi temi. Io credo di poterle rispondere in maniera molto puntuale sulla domanda. Oggi in Italia le certificazioni DOP e IGP consentono al consumatore di identificare con grandissima puntualità il territorio, in genere un piccolo territorio per le DOP, un territorio più esteso per l'IGP, da cui provengono le olive e dove sono. Sì, la mia domanda era non sull'olio DOP, era sul resto. Certo, tutti gli altri oli debbono necessariamente, per legge, e bene fanno i controlli ad essere su questo vigili e lo dimostrano ogni volta di esserlo, debbono recitare sull'etichetta l'origine del prodotto ed il luogo dove sono state molite le olive. Quindi quando lei trova scritto olio 100% italiano vuol dire prodotto da olive italiane molite in un frantoio italiano, altrimenti deve trovare scritto olio comunitario o altrimenti miscele di olio comunitario. Viceversa, poi addirittura trova anche un olio extra UE e anche questo deve essere sulle etichette. La truffa è quando tutto questo non accade. Quello che è accaduto la settimana scorsa ad opera in Toscana, nella Valpesana, l'hanno riportato dei quotidiani nazionali, ad opera di un controllo del nostro sistema, appunto, dimostra come, siccome questo Made in Italy vale di più, c'è un sistema di truffe che è sempre pronto, rispetto al quale i controlli, le etichette, la legge salva olio sono la testimonianza, insomma, di un sistema agroalimentare italiano serio, di un mondo di produttori seri che la sfida della qualità, della rintracciabilità, la vuol percorrere nei binari delle regole. Grazie, grazie. Ho 30 secondi per Alessandro da Prato, proprio 30 secondi. Prego. Buongiorno, purtroppo mi ha anticipato il signore che ha parlato ora, proprio mi piaceva precisare questa cosa, che noi abbiamo una legislazione molto molto ferrea, specie nell'IGP, specie nel DOP. E appunto, sì, ma il problema, l'area grigia è sul resto, sul DOP e IGP è una produzione molto limitata, è sul resto, i problemi sono sul resto, è lì il punto. È vero. Comunque la specifica comunitaria, la specifica 100% italiana, anche quella deve seguire una certo, però io vorrei sapere anche da dove arriva, però vorrei andare oltre, vorrei sapere anche da dove arriva, non solo dove viene imbottigliato, forse sarebbe un qualcosa ancora di più. Comunque grazie, non riesco a far intervenire Francesco da Verona. Allora abbiamo chiuso questo capitolo sull'olio, sulle oliere, dove vedo proprio gli sms dei ristoratori scatenati, forse giustamente loro la pensano in questo modo, bisogna anche rispettarli, si vede che sanno cosa mettono in tavola. Bene, un buon weekend, speriamo che finalmente sia con il sole giallo appunto dell'olio. Arrivederci da Davide Paolini.